Sento dire che su quella carrettera nera stai tornando verso casa stasera e manca poco, mi farà male, so quello che sai e sai tu quello che gli occhi sanno, molto più delle parole sanno, è la storia della nostra vita, l'amore giura e scongiura un momento, ma dopo è tradimento e gli occhi sanno di più. Intorno manda fiamme, lampi nella notte in arrivo. Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni. Fra mancanza e silenzio, litigi e tradimento, perdono e pentimenti, che noia. Ma guarda tutti quelli laggiù, come ballano e si baciano. Sono tornata. E vengo a dirti che in mezzo a questa arsura, in questa notte scura, scura, con la polvere e il caldo che sconfigge, la passione trafigge, illude, distrugge. Ma se perdona, perdonerà anche me. Dal buio in fondo qualcosa si avvicina piano, sento l'asma di un motore lontano, mi farà male vederti, ma fanno già festa i cani del mio cuore. Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni. Fra lontananza e silenzio, litigi e tradimento, perdono e pentimenti, che noia. Ma guarda tutti quelli laggiù, come ballano e si baciano, con che sguardi si incatenano.